Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Milano, sul profilo Facebook dell'aggressore della stazione, forse video inneggianti all'ISIS. Il sindaco Sala conferma intanto la marcia per l'accoglienza. Maroni chiede di cancellarla. La Svezia archivia l'indagine su Assange e fa cadere le accuse. Il mandato di cattura resta valido, dice Scotland Yard, mentre Wikileaks pubblica i dettagli su un software spia della CIA. Vaccini oggi il Consiglio dei Ministri per il ripristino dell'obbligo. Sul provvedimento tensione tra Lorenzin e Fedeli, forse il via libera solo per materne e nidi. Trapani in manette per corruzione, uno dei candidati sindaci del centrodestra ha arrestato anche un armatore. Caos politico perché un altro candidato sindaco in un'altra inchiesta ha l'obbligo di dimora. L'Iran va al voto. I conservatori provano a strappare la presidenza Rouhani, che però è favorito. 56 milioni le persone che andranno alle urne. Si arrende dopo ore l'uomo che a Torino si era barricato in casa con la pistola in mutande. Ha passato 22 ore a lanciare oggetti dal balcone. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-6666 è come sempre il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta, dal vivo, in diretta video. Dunque, apriamo questa trasmissione di oggi parlando delle indagini sull'aggressione che è avvenuta ieri a Milano in stazione centrale. Il tutto si collega ad un momento nel quale si attende la marcia di domani, una marcia per l'accoglienza che, come vi abbiamo già raccontato ieri, sta suscitando molte polemiche. Iniziamo però dalle indagini. Sono ancora ricoverati, coscienti e sotto osservazione, l'agente della Polfere e il militare dell'esercito accoltellati ieri sera da un giovane alla stazione centrale di Milano, mentre un caporale maggiore è stato già dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il feritore, arrestato per tentato omicidio, è un 20enne italiano di padre tunisino e madre italiana. Si chiama Tommaso Ben Youssef Hosni Ismail, ha precedenti per droga, è una sorta di nomade, dorme in un furgone. Era stato arrestato lo scorso dicembre proprio in stazione centrale per spaccio. Lo ha riferito il questore Marcello Cardona, precisando che il ragazzo, il quale era stato in Tunisia fino al 2015, non sembra affatto uno squilibrato, e ha aggiunto: lo abbiamo fermato in 8 secondi, questo dimostra la grande capacità di intervento dei nostri uomini. Sul giovane ora indaga il pool antiterrorismo milanese per capire se avesse contatti con l'ambiente del radicalismo islamico. Sono infatti in corso verifiche per scoprire se un profilo Facebook con il nome Ismail Hosni, contenente uno o più video inneggianti a l'ISIS, appartenga al ragazzo. Intanto il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato che la marcia Milano senza muri, che il presidente della regione Lombardia Maroni aveva chiesto di annullare e prevista per domani, si farà comunque. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'avete sentito? La marcia si farà comunque. A questo è dedicata l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. La marcia si farà, assicura il sindaco di Milano Beppe Sala del PD. La marcia deve essere assolutamente annullata, sostiene il governatore della Lombardia Roberto Maroni della Lega. Si profila imponente la marcia organizzata domani a Milano dall'assessore Pierfrancesco Maiorino contro i muri del razzismo, guidata proprio dal sindaco. Nel capoluogo lombardo arriveranno in decine di migliaia da tutta Italia per quella che taluni già definiscono una delle più grandi manifestazioni di questi ultimi anni. Ma al di là dei numeri della marcia, dell'evidente contrapposizione tra due idee separate di gestione dei migranti, la marcia di Milano rischia di essere travolta dall'ultimo fatto di cronaca che ha come scenario la stazione centrale di Milano. Un agente della Polfer, un caporal maggiore, un militare semplice dell'esercito sono stati accoltellati da un 20enne, italiano ma di origine maghrebina. Mentre gli inquirenti lavorano sulle cause dell'aggressione, la sola la provenienza del ragazzo ha fatto scattare una rida di speculazioni indegne di un paese civile. Ecco perché la politica dovrebbe oggi ragionare più sulle soluzioni dei problemi, invece di lasciarsi guidare dalla pancia del populismo più estremo. Così dunque l'analisi, o meglio il commento, come avete sentito, di Daniele Biacchessi. Di questo tema torneremo a parlare più avanti, ne parleremo con l'assessore alla sicurezza, il comune di Milano, Carmela Rozza, che sarà ospite di nuovo a Effetto Giorno. Intanto c'è stata un'altra operazione antiterrorismo, questa operazione antiterrorismo si è svolta a Bari, un arresto e un espulso, sentiamo. Facevano propaganda e inneggiavano all'ISIS sui social media i due fratelli tunisini coinvolti nell'operazione antiterrorismo coordinata dalla DDA di Bari. I particolari sono stati diffusi stamattina dagli inquirenti, secondo i quali i due sarebbero possibili lupi solitari. Il più grande, il 34enne Kamel Sadrawi, è stato arrestato a Foggia lo scorso 5 maggio con l'accusa di apologia del terrorismo. L'uomo era stato già fermato lo scorso febbraio anche per detenzione di armi, ma era stato rilasciato perché il GIP di Foggia aveva escluso la contestazione di apologia del terrorismo, che è stata invece riconosciuta dal Tribunale del Riesame al quale aveva fatto ricorso la Procura di Bari. Per questo motivo nei suoi confronti è stata emessa una nuova ordinanza di arresto. Oltre ai contatti sul web con soggetti vicini all'estremismo islamico, le indagini avrebbero documentato anche i suoi collegamenti con la criminalità locale. Il fratello 32enne è stato invece rintracciato a Padova, dove gli è stato notificato un provvedimento di espulsione eseguito lo scorso 13 maggio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo al Consiglio dei Ministri di oggi, che si dovrebbe esprimere su un tema che è stato molto dibattuto e a quanto pare dibattuto anche all'interno dello stesso esecutivo, ossia l'obbligatorietà dei vaccini per andare a scuola. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dunque di questo si discute, l'obbligo di vaccinazione per i bambini come condizione per l'iscrizione. Una riunione è cominciata poco più di un'ora fa, un tema sul quale ci sono posizioni diverse all'interno del governo tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, differenze che appunto la riunione di oggi sta tentando di comporre, in particolare per quanto riguarda la fascia d'età per le quali rendere obbligatorie le immunizzazioni, da 0 a 10 per il ministro Lorenzin e da 0 a 6 per il ministro Fedeli, che vorrebbe escludere la scuola primaria. Fedeli, che aveva anche proposto di introdurre sanzioni per i genitori inadempienti, ipotesi bocciata dalla Lorenzini. Anche per le associazioni dei medici sarebbe assurdo sottrarsi all'obbligo pagando una multa. Si discute anche del passaggio del numero delle vaccinazioni obbligatorie da 4 a 12 e della possibilità di prevedere le vaccinazioni una volta per tutte, escludendo decreti annuali. Sulla salute dei bambini non si scherza, ha scritto poco prima del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi. Staremo a vedere se uscirà un decreto, se ci sarà l'accordo oppure no, e ricordiamo che sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci sono anche gli ultimi due decreti per completare la riforma del pubblico impiego. E da Roma è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Ritorniamo dunque a parlare di politica, o meglio di amministrative, di politica e di giustizia. Ci sono stati degli arresti questa mattina a Trapani, dove c'è una situazione di completo caos politico, perché uno dei due candidati del centrodestra è stato arrestato questa mattina, candidati sì, sindaco, l'altro ha l'obbligo di dimora per un'altra inchiesta. Vediamo di fare il punto su quello che è successo questa mattina, sull'operazione di oggi, in diretta con Palermo e con Nino Amadore, corrispondente da Palermo del Sole 24 Ore. Nino, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come dicevi, la situazione è abbastanza complessa, perché a questo punto sono due i candidati a sindaco che vengono a saltare. L'indagine che ha portato stamattina a tre ordini di custodia ha rivelato mazzette per i fondi che riguardano il trasporto marittimo e anche due Rolex regalati a un deputato per modificare un emendamento in Parlamento. L'operazione è stata fatta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo, dal procuratore capo Lo Voi e dagli aggiunti che si sono occupati, aggiunti e sostituti che si sono occupati di questo caso. Agli arresti domiciliari è finito Girolamo Fazio, che è deputato regionale, è stato sindaco di Trapani e adesso era candidato nuovamente a sindaco. È finito anche Giuseppe Montalto, che è considerato invece il braccio destro dell'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pistorio. Invece è finito in carcere l'armatore Ettore Morace. Per i magistrati, Moraci avrebbe fatto della corruzione una modalità quasi ordinaria dei rapporti con i pubblici amministratori. Per il momento è tutto. Sì. Grazie dunque a Nino Amadore per questo aggiornamento. Come si diceva, l'altro candidato del centrodestra, Dalì di Forza Italia, invece ha l'obbligo di dimora per un'altra vicenda. È stato assolto e prescritto per questioni di collegamenti con la mafia, ma i magistrati hanno ritenuto opportuno l'obbligo di dimora, ritenendo pericoloso socialmente, una questione contro la quale lo stesso Dalì ha ampiamente protestato, ma questo è già avvenuto nelle ore scorse. Veniamo alla vicenda Wikileaks. Ci sono degli aggiornamenti importanti oggi che arrivano dalla Svezia e riguardano Julian Assange. Sentiamo. Da 5 anni Julian Assange, fondatore di Wikileaks, vive nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per sfuggire alla richiesta di estradizione della Svezia, dove era accusato di stupro. Era, perché oggi la procura svedese ha annunciato di aver archiviato le indagini. E, dice il capo della procura, Marianne Ni, è stato ritirato il mandato di cattura europeo nei suoi confronti. Rispetto alle violenze sessuali, Assange ha sempre negato ogni colpa, sostenendo la teoria di una montatura, architettata per consegnarlo infine negli Stati Uniti, dove è considerato nemico pubblico per la diffusione di documenti e segreti che si sono rivelati imbarazzanti per Washington. Sebbene negli Stati Uniti non sia aperta nessuna inchiesta formale nei confronti di Assange, in effetti anche di recente il capo della CIA ha additato Wikileaks come un servizio di intelligence non statale ostile agli Stati Uniti. Non è chiaro per ora però se Assange potrà lasciare l'ambasciata ecuadoriana da uomo libero, perché se la Svezia ha ritirato il mandato di cattura internazionale, la Gran Bretagna si dice obbligata a rispettare quello emesso dalla Westminster Magistrates Court e ha aggiunto che Assange potrebbe essere estradato negli Stati Uniti. 2 soli giorni fa è uscita dal carcere dopo 7 anni Chelsea Manning, ex militare americano, accusata di avere girato a Wikileaks 700.000 documenti riservati. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Beh, avete sentito nel servizio di Laura Bettini l'opinione della CIA su Wikileaks, che è un'opinione molto pesante, e poi c'è quello che Wikileaks dice della CIA, perché la stessa Wikileaks ha diffuso questa mattina dei documenti sul progetto Athena, appunto, della Central Intelligence Agency americana, un programma in grado di attaccare i computer con il nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 10, e rubare i dati. Secondo i documenti diffusi oggi, il malware è stato sviluppato dalla CIA in cooperazione con il Siege Technologies, una sedicente società di cybersicurezza con sede nel New Hampshire. Sarebbe di 134 morti, secondo fonti mediche libiche citate dall'emittente Sky News Arabia, il bilancio dell'attacco portato ieri pomeriggio alla base aerea di Brak al-Shati nel sud della Libia. Secondo fonti dell'ospedale pubblico di Brak ci sono persone che sono state sgozzate, altre uccise a colpi di arma da fuoco, altre bruciate, qualcuno è stato schiacciato da veicoli militari. Il generale Al-Haftar ha promesso vendetta. E andiamo in Iran. Iran al voto in queste ore. Siamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore a Teheran, Alberto Negri. Alberto, buongiorno, che quadro ci puoi dare? Ma ci sono già lunghissime file ai seggi, per la verità da stamattina, molto presto, che gli iraniani, soprattutto qui a Teheran, si sono messi in fila per andare a votare e scegliere tra il presidente uscente Hassan Rouhani e il suo competitor, il suo concorrente, che è Ibrahim Raisi. Come sapete bene, Hassan Rouhani è l'uomo che ha fatto l'accordo del 2015 sul nucleare, e questo è stato probabilmente il suo più importante risultato in questi 4 anni di presidenza, ed è contestato dall'ala più dura conservatrice del regime, che ha presentato Ibrahim Raisi, che è tra l'altro un ex procuratore generale, per contrastare una rielezione per il secondo mandato di Rouhani. Comunque vadano le cose, queste sono comunque elezioni strategiche. L'Iran è uno dei grandi protagonisti del Medio Oriente, coinvolto in Iraq, in Siria, in Libano, ovunque nella regione, proprio mentre il presidente Trump dall'Arabia Saudita si sta spostando in Israele. Insomma, guarda dall'altra parte del Golfo quello che sta accadendo qui a Teheran. E grazie, grazie dunque ad Alberto Negri per questo aggiornamento, e ovviamente torneremo ad aggiornarvi nell'arco della giornata. Siamo alle vicende politiche italiane, invece, che riguardano ancora le questioni delle intercettazioni, la vicenda Consip, le dichiarazioni di oggi del ministro della giustizia Orlando. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Le intercettazioni sono un problema da risolvere approvando la legge, quanto afferma il ministro della giustizia Andrea Orlando, che interviene sul caso Consip. Non esiste una certezza, ma la mia legge limiterebbe il rischio. Sulla telefonata tra Renzi figlio e Renzi padre, Orlando dice di aver pensato che non doveva stare sui giornali perché non ha rilevanza penale, quindi non doveva stare neppure agli atti processuali, e dice il guardasigilli mi sembra un elemento di inciviltà pretendere di trarre valutazioni politiche da una conversazione del genere. Il caso Consip sembra poi non intaccare il PD nei sondaggi, perché abbiamo le nuove intenzioni di voto, Simone, quelle lì dell'istituto XE. Nell'ultima settimana i Dem sono dati al 28,6% contro il 28,5% dei 5 Stelle, in pratica le due forze politiche sono in parità, Forza Italia al 12,9%, Lega Nord al 12,4%, Fratelli d'Italia al 4,4%, AP al 3%, MDP al 2,7%, Sinistra Italiana al 2,4%. La fiducia nel governo è al 33%, il gradimento di Renzi al 31%, quello di Di Maio al 21%. A te, Simone. E grazie dunque alla nostra Elisabetta Fiorito. Chiudiamo così questa prima parte di Effetto Giorno e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Partiremo da Milano, che si prepara a questa marcia per l'accoglienza ai migranti. Vedo già molti vostri dubbi e perplessità che ci arrivano via SMS, via WhatsApp al 349-238-6666 e anche qualcosa, se volete, ce lo potete scrivere anche sulla pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta video. Ne parleremo con l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano. E poi avremo molte storie di giustizia oggi, o almeno un paio che sono particolari. Innanzitutto una vicenda che risale al 2012, una vicenda della quale vi avevamo parlato anche a lungo da questi microfoni, sulla quale tutti avevamo fatto grandi titoloni sui giornali per una serie di medici indagati perché avrebbero prescritto degli ormoni a dei bambini addirittura. Perché erano pagati da una casa farmaceutica. Ebbene, a quanto pare fuffa. Nel senso che sono stati tutti assolti. E poi ci occuperemo anche della vicenda della donna che a Torino è stata stuprata e non avrà nessun risarcimento perché il suo stupratore è indigente. A tra poco. Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle indagini che riguardano l'aggressione di ieri alla stazione centrale di Milano. Ci siamo occupati di Wikileaks perché la Svezia ha archiviato l'indagine su Assange di vaccini, perché il Consiglio dei Ministri deve decidere su questo tema, degli arresti che ci sono stati a Trapani, tra l'altro tra questi anche quello di un candidato sindaco, e dell'Iran al voto. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo proprio da Milano, dove ieri c'è stata questa aggressione. Giusto per precisare con gli ascoltatori, quando diciamo che l'aggressore che ha colpito, ferito due soldati e un uomo della Polfer ieri è italiano, non è una questione di ipocrisia, è figlio di una donna italiana e di un uomo tunisino, è nato in Italia e quindi è un italiano, cioè lo è anche tecnicamente, non è che l'essere di padre tunisino lo fa straniero, è nato e cresciuto in questo luogo e quindi per favore su questo togliamo via la polemica. Invece a Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, alla quale do il bentornata assessore, eccoci qua. Chiedo che senso ha la marcia di domani, ce lo chiedono molti ascoltatori, tanto più che aggiungo io, Milano è una città di suo che già accoglie e accoglie molto, quindi non so, lascia perplessi molti osservatori, non solamente di destra o di centrodestra. Allora, la marcia di domani ha un significato preciso, almeno per quanto ci riguarda, ed è una marcia che chiede di togliere qualsiasi muro, perché noi siamo convinti che i muri consegnano le persone che vogliono raggiungere l'Europa, li consegnano alle organizzazioni criminali, e che i muri determinano insicurezza. Il tema vero è che se noi ignoriamo il flusso di gente che vuole venire da noi e non lavoriamo per creare un sistema ordinato e diffuso di accoglienza, oltre a risolvere il problema in Africa, come dice il ministro Minniti, noi i muri ci portano insicurezza. Questo è il tema profondo del significato della manifestazione. Però, assessore, il dubbio anche mio è questo: ma noi di muri non è che ne mettiamo, nel senso che la gente arriva, c'è un problema di come viene gestita questa accoglienza e su questo possiamo ragionare su come è stato strutturato questo patto che poi è stato firmato ieri da Minniti, che è un patto che prevede un'accoglienza più diffusa sul territorio, non tutto concentrato su Milano, però non so come dire, non mi sembra che l'Italia abbia un problema di muri in questo momento. Beh, in Italia, l'Italia ha un problema di muri, perché per esempio tutti i comuni della Lega non vogliono nessuno, e quindi mentre la Lombardia dichiara di avere il 13% dei cittadini, dei richiedenti asilo che arrivano in Italia, in realtà quel 13% pesa solo sulle amministrazioni di centrosinistra. Il Veneto crea muri, non ci permettono per esempio un lavoro serio di accoglienza diffusa. L'accoglienza diffusa a piccoli gruppi determina conoscenza e controllo, i grossi concentramenti riducono il controllo. Se noi in Italia siamo ancora con un sistema di accoglienza che io trovo, ritengo insufficiente da un punto di vista della sicurezza, è proprio perché non si affronta il tema nella sua realtà e non lo si affronta per determinare sicurezza, perché io credo che i miei cittadini, nel momento in cui c'è l'accoglienza, hanno diritto e io il dovere di dargli sicurezza, e questi muri eretti all'interno del nostro territorio fanno esattamente l'operazione opposta. Sì, però non è che li convincete così i sindaci leghisti, eh? Questo non lo so se li convinco, a me interessa convincere i cittadini e dire ai cittadini che le paure che si seminano, chi semina paura in realtà sta operando per creare l'insicurezza, non sta operando per creare la sicurezza, e questo è il primo punto. Il secondo punto è che la nostra manifestazione raccoglie il testimone di Barcellona, perché i muri li deve abbattere anche l'Europa, perché l'alzata dei muri in Europa ci sta creando ancora di più un problema nel nostro territorio, perché anche lì molti governanti costruiscono e reggono muri non per risolvere i problemi, ma solo ed esclusivamente per raccogliere il basso consenso nei loro paesi. C'è un problema, è stato sottolineato, tra l'altro vogliamo ricordare ieri dall'Europarlamento, un problema di ricollocamenti, e giustamente lei questo lo sottolinea. C'è un grande tema di solidarietà europea da questo punto di vista. Ultima domanda che le voglio fare riguarda invece l'episodio di ieri sera e il tema della sicurezza alla stazione centrale di Milano, che è un tema che torna a riproporsi dopo la maxi rissa delle settimane scorse, dopo il grande blitz con dispiegamento di forze messo in campo dalla questura, sul quale avevate espresso, lei stessa ai nostri microfoni aveva espresso qualche perplessità. Là resta un tema? No, lì è un tema, non solo resta. Guardi, la polizia locale di Milano, io dico da quando io sono assessore alla sicurezza al comune di Milano, la polizia locale di Milano spesso ha presidiato da sola con l'esercito la stazione centrale. E se l'amministrazione di Milano riteneva importante tenere lì due pattuglie H24 in stazione centrale, perché ritenevamo che c'era un problema. Io ho chiesto più volte controlli approfonditi in stazione centrale. L'elemento che ha fatto, di cui il sindaco si è lamentato, che quell'intervento non eravamo stati informati, non perché si facevano i controlli. I controlli non solo non sono mai stati in discussione, li abbiamo chiesti noi, dal 2 di maggio a oggi, alternativamente polizia, carabinieri con presenza anche della polizia locale operano quotidianamente e costantemente controlli e identificazioni. Questo è il metodo che noi, secondo noi, deve essere ancora portato avanti. Sì, del resto poi quello che è avvenuto ieri è avvenuto durante un controllo a tutti gli effetti. Grazie Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, per essere stata con noi. Vedo molte perplessità che arrivano dagli ascoltatori. Giustamente ci dite, ma questa è l'opinione dell'assessore. Certo è l'opinione dell'assessore, è lei che abbiamo intervistato, per forza, naturalmente. Mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, ve lo ricordo, www.facebook.com/effettogiorno, una nostra grande passione che è quella dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romana. Perché? Perché oggi abbiamo pescato un pezzo sul Messaggero firmato da Lorenzo De Cicco, che torna con noi. Lorenzo, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno. Bentornato. Di una di quelle vicende meravigliose che riguardano l'ATAC, e guardate che qua lo dico perché poi ci scrivono gli ascoltatori fedelissimi del Movimento 5 Stelle, ci dicono no, ce l'avete sempre con la Giunta di Roma. No, qua in questo caso la Giunta di Roma c'entra poco o nulla, fatto salvo per il protocollo protocollo che ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL per far cosa? Per far sì che dei 1400 amministrativi dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romani, una parte, anzi tutti quanti, un giorno a settimana facessero non da controllori perché non lo possono fare tecnicamente, ma da dissuasori, cioè stanno là e stanno sugli autobus e fanno in modo che la gente magari il biglietto lo timbri. Che cosa succede? Lorenzo, grande trasmigrazione verso verso altri sindacati. Sì, intanto diciamo che è una passione all'ATA, che è una passione anche per molti romani, diciamo in senso più evangelico, tormentato, diciamo meno... sì. Da appassionati, sì, ovviamente come spesso accade in Italia, no? Si dice fatta la legge, trovato l'inganno, per cui l'accordo che l'azienda amministrata da Manuel Fantasia, che era stato scelto dalla Raggi a settembre, aveva la firma dei sindacati confederali che rappresentano ovviamente una buona parte, una buona fetta dei dipendenti di ATAC, e quindi si estendeva ovviamente ai lavoratori iscritti a quei sindacati. Chi non è iscritto non doveva fare il controllore. Noi parliamo ovviamente di una realtà ipersindacalizzata, l'ATAC, ne abbiamo discusso anche qui su Radio 24 diverse volte, l'ultimo direttore generale, il penultimo, Francesco Micheli, parlò proprio di un consociativismo tra sindacati e politica che aveva reso marcia la partecipata dei trasporti, e quindi che succede? Questo è l'ennesimo episodio, l'ennesima dimostrazione, i dipendenti per non fare controllore, gli impiegati per non lasciare le scrivanie cambiano sigla oppure danno semplicemente la disdetta a CGIL, CISL e UIL, e così rimangono comodi negli uffici. Ovviamente rimane la piaga dell'evasione dei biglietti, che a Roma è una delle più alte d'Europa, cioè secondo le stime, secondo me molto molto prudenti, dell'azienda è del 25%, ma fa, sì, diciamo, tu nel la tara tuo, tra metro e bus. Lorenzo, tu nel tuo titolo fai, nel tuo pezzo fai un calcolo, un danno tra i 70 e gli 80 milioni di euro l'anno per l'ATAC, 350 hanno cambiato sindacato, dunque tirandosi così fuori, e altri ovviamente sono andati a far le visite mediche, diciamo più o meno un 10% di questi è andato a fare le visite mediche per farsi dire sostanzialmente, o per sperare che qualcuno gli dicesse non lo puoi fare. Sì, per sperare di essere inidonei, perché ovviamente la mansione, diciamo, da controllore è molto diversa, un po' più disagevole dello stare comodi dietro una scrivania, e quindi peraltro queste visite mediche, diciamolo, costano anche diverse centinaia di euro per l'azienda, quindi il rischio qual è? Che questa operazione, tra la fuga dai confederali e la corsa alle visite mediche, diventi un flop con poche centinaia di dipendenti che, divisi in un turni da una volta a settimana, vanno a fare da dissuasori senza neanche poter fare le multe. Certo. Nel frattempo l'evasione rimane quella piaga gigantesca che poi si traduce in meno incassi per ATAC, che ha un debito che nell'ultimo bilancio supera il miliardo di euro. Miliardo di euro di debito. 1,3 miliardi. Ma grazie, sì. Io ti ringrazio. Grazie Lorenzo De Cicco, col quale dobbiamo chiudere. Vi chiudo in realtà su questa vicenda dell'ATAC con questa dichiarazione che arriva dalla CGIL, che è riportata dallo stesso Lorenzo nel suo pezzo. Dice: per rendere più attraente la nuova mansione, sempre la CGIL chiede di escludere questa attività il venerdì pomeriggio. Non ne voglio più sapere niente. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi dopo parliamo di giustizia, una soluzione importante che c'è stata ieri. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. In apertura dei nostri titoli, una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda l'inchiesta di Trapani, quella nella quale è stato arrestato il candidato sindaco, uno dei due candidati sindaci del centrodestra. Si apprende adesso che è indagata anche il sottosegretario alle infrastrutture Simona Vicari, indagata per corruzione in cambio di un Rolex. Secondo i magistrati avrebbe presentato un emendamento che abbassava dal 10 al 4% l'IVA sui trasporti marittimi, perché lo ricordiamo è stato arrestato anche un armatore in questa inchiesta. La vicenda di Milano, sul profilo Facebook dell'aggressore della stazione, forse video inneggianti all'ISIS, si sta indagando. La Svezia archivia l'indagine su Assange e fa cadere le accuse. Il mandato di cattura resta valido, dice Scotland Yard sul fondatore di Wikileaks. Vaccini oggi il Consiglio dei Ministri per il ripristino dell'obbligo sul provvedimento tensione tra Lorenzin e Fedeli. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, in diretta video. Maledizione, abbiamo due belle, o meglio brutte, storie da raccontare e così poco tempo, però vedremo di farci stare tutto quanto. Iniziamo da una vicenda che parte nel 2012 e che soprattutto i genitori si ricorderanno bene, perché era una storia che ci raccontava, era l'ottobre del 2012, ci raccontava di medici che scrivevano ormoni ai bambini di fatto per compiacere informatori medici piuttosto che case farmaceutiche, cose di questo genere, in cambio di denaro. Parte questa inchiesta, molti indagati in tutta Italia, c'è il processo in corso di procedimento. Cambia il PM, arriva il PM Giuseppe D'Amico, l'inchiesta parte da Busto Arsizio. Si risolve in cosa? Nel fatto che sostanzialmente sono stati tutti assolti su richiesta dello stesso PM. E perché? Perché le intercettazioni erano state mal interpretate, perché non si era tenuto conto di alcuni elementi. Saluto Roberto Salti, che era il responsabile del reparto di auxo-endocrinologia del pediatrico Meyer di Firenze e adesso in pensione. Professor Salti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, 5 anni ci sono voluti per riabilitarla. Sì, le indagini però sono partite nel 2009, cioè i fatti di cui siamo stati indagati erano relativi addirittura al 2009, tanto è vero stava per andare tutto in prescrizione. Sì. E per quanto riguarda la mia posizione, ecco, si presentarono a me dei rappresentanti della società Sandoz che volevano partecipare a un assegno universitario. Io sono un dipendente dell'università, un professore di pediatria universitario, volevano partecipare a un assegno di ricerca universitario contribuendo con 9.000 euro, praticamente un cofinanziamento, perché un assegno di ricerca è 24.000 euro. Sì. Io chiaramente ringraziai civilmente questi signori, li portai all'ufficio amministrativo dell'università e fu fatta una convenzione secondo legge, che è la 449 del 1997, tra Sandoz e Università degli Studi di Firenze. Per professor Salti, riassumo io, 9.000 euro. Per 9.000 euro. Pur essendo transitati dall'Università di Firenze e poi arrivati e utilizzati per questa ricerca, sono passati nell'ipotesi investigativa iniziale per una mazzetta. Una mazzetta, perché è stato detto che era un contributo al reparto ospedaliero di appartenenza. Quando mai un reparto ospedaliero ha un conto corrente? Il conto corrente ce l'ha l'ospedale, certo, o ce l'ha l'università. Eventualmente ce l'ha l'ospedale. Io ho tentato disperatamente di chiarire le cose, sarebbe bastato mezz'ora, come facciamo io e lei, forse anche meno, capito? Ma non ho mai avuto il piacere di parlare col magistrato. Sono stato direttato nel 2013 o 2014, non mi ricordo, ai NAS di Bologna, dove fu fatto un verbale con tutto quello che io dovevo dichiarare, va bene? Questo verbale praticamente non è stato mai letto. Ne ho avuto la prova perché ero stato accusato anche di aver partecipato a un congresso, invece non avevo partecipato, come risultava ai NAS di Bologna. Quindi proprio è stata un'amarezza non poter essere ascoltato. Finalmente poi siamo arrivati al giudizio, a Busto Arsizio, non ho niente da osservare su questo, c'è stato della verità, in cui ho fatto le mie ragioni Ragioni che sono state riconosciute, le sue come professor Salti, e qua la saluto, come quelle di altri 40 imputati che sono stati assolti. Tutto questo dopo un'indagine iniziata nel 2009 che nel 2012 ha portato agli indagati. Altra vicenda di giustizia della quale vi abbiamo accennato ieri e che riguarda una donna di Torino che è stata violentata, che il suo stupratore è stato condannato, stupratore indigente, quindi non può secondo i giudici offrire alcun risarcimento. In questo caso dovrebbe intervenire lo Stato e dare un risarcimento alla donna, risarcimento che però dai giudici è stato negato. Gaetano Catalano è l'avvocato della donna, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Come mai il giudice ha preso questa decisione? Ma il Tribunale di Torino ha interpretato la direttiva 80-2004 della CE, ritenendo a suo modo che per ottenere l'indennizzo a carico dello Stato la vittima dovrebbe teoricamente prima esperire tutti i tentativi di recupero del risarcimento in capo all'autore del reato, in questo caso allo stupratore. Stupratore che, come già però emergeva dalle sentenze penali, era persona che recidiva, aveva già passato diversi anni in carcere, era un soggetto trentenne e che era di nuovo rientrato nelle patrie galere, quindi un soggetto che con ogni probabilità era un soggetto totalmente indigente. Quindi il giudice dice: prima di ricevere l'indennizzo dello Stato tu devi fare di tutto per ottenere i soldi da questo, che però è già riconosciuto come indigente e vive in carcere, è in carcere, e quindi chiaramente non può risarcire. Sì, sostanzialmente quello che dice il Tribunale è: devi dimostrarvelo, quindi devi fare delle attività esecutive, notifica dell'atto di precetto, notifica dei pignoramenti. Quando queste attività risultano vacue, allora a quel punto potrai chiedere allo Stato. Peccato che la direttiva in questione non dica assolutamente questo, e nel caso di specie sarebbe stato ancora più problematico per la vittima, perché nella causa penale, sia in primo che in secondo grado, il tribunale non si era espresso su una liquidazione del danno, sì, in capo alla vittima, per cui la signora avrebbe dovuto, come indicava proprio la sentenza, sì, penale, agire prima in sede civile, quindi farsi, sì, tutta la causa in civile nei confronti dello stupratore per vedersi riconosciuto un importo, dopo questa causa fare le attività esecutive inutili, laddove al di là di una questione di prova, sì, tutto questo non fosse funzionante, il soggetto fosse chiaramente indigente. Ecco. Quindi doveva provare lei che lo stupratore in questione era povero e indigente. Grazie avvocato Catalano per essere stato con noi. Il traffico platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.